gli angeli buoni. La creazione si divide in cosmo materiale e cosmo spirituale. L'uomo appartiene ad entrambi, mentre gli angeli esclusivamente al secondo. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento si parla di esseri spirituali invisibili chiamati angeli. Sono creature perché sono stati tratti dal nulla, ma partecipano in qualche modo al governo del mondo. Dio, che in sé è relazione, si fida e si affida alla relazione. Per questo ama non fare da solo e moltiplica gli intermediari. Questi sono totalmente diversi dal demiurgo platonico che era ontologicamente a metà strada tra la sfera divina e il mondo. Il ruolo degli angeli non è necessario, ma libero. Dio potrebbe far da solo, ma vuole comunicare la propria bontà magnanimamente, affidandola alla relazione personale. Ciò riflette anche il rispetto per la libertà degli uomini, che non vengono obbligati dalla visione diretta del Signore degli eserciti. La connessione tra mediazione e relazione è fondamentale, perché gli angeli non agiscono per conto proprio, ma alla luce di colui che è l'unico e vero intermediario, cioè il Cristo, senso della creazione. Per questo la loro non è un'altra mediazione tra Dio e il mondo, che si aggiunge a quella di Cristo. Essi, invece, sono a servizio proprio dell'unica mediazione del Verbo incarnato, grazie alla relazione con Lui. Anzi, tutto l'essere degli angeli santi è pura relazione a Lui. Così il loro nome indica la loro funzione principale, cioè quella di messaggeri, portatori del Logos, annunciatori della parola divina. L'aramaico Malak significa più propriamente delegato o ambasciatore. Spesso appaiono nell'Antico Testamento in relazione al rendere gloria a Dio. Salmo 148:1-2, Salmo 120:20. Numerose volte compare anche l'espressione angelo del Signore, che per molti dei padri indicava Dio stesso. Per la teologia giudaico-cristiana, infatti, le espressioni legate all'angelo erano utilizzate per indicare la manifestazione della persona, poiché egli è persona spirituale. Così in alcuni casi sembra che l'angelo di Yahweh indichi il Dio personale nel suo agire salvifico. Per altri padri, invece, queste espressioni fanno riferimento proprio alle creature angeliche. Per capire veramente chi sono, bisogna guardare come sempre Cristo, perché essi sono i suoi angeli. Matteo 25:31. Gesù confuta i sadducei che non credevano nella loro esistenza. Non serve ricordare tutte le loro apparizioni nel Nuovo Testamento, ma è importante notare che esse fanno sempre riferimento a Cristo. Essi sono, in un certo senso, i mediatori del mediatore. Come accompagnarono Cristo lungo la sua vita da Betlemme fino all'orto degli ulivi, così essi rimasero vicino al suo corpo nel sepolcro e continuano a vegliare sul suo corpo che è la Chiesa, vicinanza evidente soprattutto nei primi tempi del cristianesimo. La dottrina patristica è in questo ambito molto estesa. Il Magistero difese la legittimità della loro rappresentazione contro gli iconoclasti nel VII Concilio di Nicea del 787 e difese la loro vera natura creata contro le dottrine gnostiche che negavano direttamente o indirettamente che si trattasse di creature. Il Concilio Lateranense IV, 1215, ribadì la loro creaturalità e Tommaso chiarì che essi non hanno nessun ruolo demiurgico, cioè che non intervengono nell'atto creativo. La Chiesa ha sempre affermato la loro protezione e li ha venerati, come si vede dai riferimenti alla loro presenza nella liturgia e dalla festa del 2 ottobre, come pure nell'invito a raccomandarsi ad essi. Il loro potere riguarda anche la cura della materia, delle nazioni, delle istituzioni. I padri parlano moltissimo dell'angelo custode e gli autori giudaico-cristiani affermano l'esistenza di un angelo per ogni ufficio, sia ecclesiastico che civile, così come parlano dell'angelo custode delle nazioni. Esisterebbe dunque un angelo particolare non solo per ogni persona, ma anche un angelo particolare per aiutare nel ministero sacerdotale o nello svolgimento di una funzione di governo. Si noti che a Fatima apparve l'angelo custode del Portogallo. A partire da Gregorio Magno, i padri sottolineano la dimensione cristologica di tutto ciò, dal momento che il Verbo si è incarnato, gli angeli non possono lasciarci, perché l'umanità è stata assunta. Tommaso dice che sono come la scorta che Dio ci ha posto al fianco nel cammino della vita, che rimarrà con noi nell'eternità. La Chiesa, dove avviene la liturgia, è presentata da molti testi antichi come il luogo dove si riuniscono gli angeli. E la loro presenza deve concentrarsi in particolare attorno al tabernacolo. La liturgia terrestre è dunque accompagnata dalla liturgia celeste in un coro sinfonico rivolto al Padre mediante il Figlio nello Spirito Santo. Gli angeli capiscono l'uomo e lo vedono come nemmeno lui stesso si vede, perché ne colgono il valore infinito legato all'incarnazione, perché lo contemplano alla luce di Cristo. Seguendo la dottrina paolina, Efesini 1:21 e seguenti e Colossesi 1:16, e l'Antico Testamento, nella liturgia e negli scritti dei padri si parla spesso di una complessa gerarchia celeste. La formulazione dello pseudo Dionigi l'Areopagita è la più nota. Esisterebbero tre livelli, ciascuno dei quali a sua volta composto da tre ordini di angeli. Nel livello più alto si trovano i troni, i cherubini, dalla radice di pregare, benedire, e i serafini, gli ardenti. Poi, nel secondo, le potestà, le dominazioni e le virtù. Infine, nell'ultimo livello, gli angeli, gli arcangeli ed i principati. Tra questi, gli arcangeli occupano un posto particolare nella storia della salvezza. Conosciamo il nome di tre di loro. Michele, chi come Dio? Daniele 10:13-20, Apocalisse 12:7 e Giuda 9. Gabriele, potenza di Dio, Luca 1:19-26. Raffaele, Dio guarisce, Tobia 12:15-20. Essi sono creature completamente spirituali. Il primo padre ad insegnare ciò è stato Gregorio Magno. Questo sembra scontato, ma in precedenza si pensava che, essendo creature, quindi limitati, dovessero avere una certa corporeità. Origene, nel secolo III, ancora pensava che gli angeli si differenziassero dagli uomini solo perché il loro corpo era più sottile e che gli uomini stessi, nell'escaton, fossero destinati a tornare al loro stato iniziale di anime preesistenti, praticamente identiche agli angeli. La teologia del secolo IV chiarirà la differenza di natura tra gli uomini e gli angeli. La riflessione tomista riaffermerà con forza l'assoluta spiritualità degli angeli, mettendo ben in evidenza la differenza rispetto agli uomini. Proprio perché sono spirituali, il loro numero può essere sconfinato. La loro finitezza, dice Tommaso, non deriva dalla materia, come pensava Agostino, ma dalla composizione di atto e potenza. La loro individuazione può provenire solo dalla specie, visto che non c'è materia. Quindi non hanno una natura comune come gli uomini, ma ciascuno è una specie a sé. Dalla loro spiritualità si deduce che sono immortali. Anche se non c'è durata temporale per loro, tuttavia essi sono soggetti a progresso in conoscenza e santità. Non avendo materia, non sono localizzati in nessun luogo preciso. La loro immaterialità è ciò che li rende così difficili da accettare per i razionalisti e gli empiristi. Agiscono sul mondo in modo simile a come l'anima agisce sul corpo, per cui si può parlare di una loro presenza non circoscritta ma operativa. Non possono agire in ogni luogo perché non sono Dio, ma non sono sottoposti alle leggi fisiche e per questo la tradizione li raffigura alati. Il loro intelletto funziona in modo intuitivo e non invece discorsivo come nel caso degli uomini. Anche la loro volontà non è sottoposta ai limiti e alle imperfezioni di quella umana. In campo teologico, la loro esistenza è stata messa in dubbio dai seguaci della demitologizzazione come Bultmann. Secondo questa prospettiva, fortemente influenzata dal protestantesimo, la loro presenza nella scrittura sarebbe solamente un resto di antichi miti e andrebbe purificata. Per Bultmann è impensabile usare la luce elettrica e la radio e credere ancora agli angeli, che sarebbero mere rappresentazioni di forze della natura. Analogamente, gli illuministi avevano visto angeli e diavoli come prodotto della fantasia umana, seguendo il principio che gli antichi sarebbero ingenui e primitivi. A volte il fideismo di alcuni cristiani e rimasugli di superstizioni possono aver contribuito ad avallare queste tesi, ma nella Chiesa l'atteggiamento costante è sempre stato quello razionale. Si crede agli angeli perché Dio ne ha rivelato l'esistenza, non per esperienza. Non si può rigettare la loro esistenza su basi scientifiche, proprio perché sono puramente spirituali e non entrano nel dominio di indagine di discipline che esplorano solo l'ambito materiale segnato dalla necessità. Gli angeli non fanno rumore, non attirano l'attenzione su di sé e non intervengono se non quando Dio lo richiede, perché sono tutti rivolti a Lui e celebrano la sua gloria. Questo è il senso della loro esistenza. È interessante notare come nelle concezioni pagane, al contrario, gli dèi non facessero altro che attirare l'attenzione su di sé, come se avessero bisogno di riconoscimento. Gli angeli, invece, già hanno Dio e cercano di attirare l'attenzione di tutti su di Lui. Veramente non ci si rende conto di quanto aiutano. Solo loro conoscono il valore dell'uomo, della sua vita e della sua storia. Ad esempio, ci si può fare un'idea di quanto apprezzino la capacità umana di perdonare dal fatto che loro non possono pentirsi. La fede nell'esistenza degli angeli soffre anche perché attualmente non si accettano mediatori nel rapporto con Dio. In verità, storicamente si constata che quanto meno si parla degli angeli, tanto più è presente il rischio del panteismo e del deismo.